Food Lab. Il cibo del futuro e il futuro del cibo. Di Federico Pedrocchi e Chiara Albicocco. Il settore dove li vedremo applicati alla grande sarà proprio l'agricoltura. Stiamo per raccontarvi qualcosa sui droni. E qui a Foodlab vi descriviamo le frontiere dell'agri-food e i droni senza dubbio ne fanno parte. Andiamo! Per parlare di droni siamo andati, Federico, da una delle prime pilota donne italiane di droni. Diamo il benvenuto a Masha Foschi. Ciao Masha, benvenuta. Ciao a tutti. Benvenuto. Ciao a tutti i radioascoltatori, grazie. Tu sei cofondatrice di una startup che si chiama Aerodrone, che appunto utilizza i droni in diversi ambiti e quindi fa anche formazione per futuri piloti. Sì. Voi siete a Parma, siete una realtà piuttosto nuova ma molto innovativa. Allora, intanto ti chiediamo, Masha, di raccontarci che cosa sono i droni e in che modo poi possono essere utilizzati in ambito agricolo, ovviamente. Ma guardate, gli strumenti appunto chiamati droni sono degli strumenti molto intelligenti che hanno la caratteristica, la capacità di poter essere pilotati, quindi volano senza pilota a bordo. Questa caratteristica li rende abili a determinati tipi di lavori e soprattutto perché ovviamente le visioni dall'alto sono visioni che possono essere davvero molto molto utili e molto interessanti per vari campi di applicazione. I droni volano, questo insomma oramai è oltre lo sappiamo tutto, esatto, ma in effetti la loro caratteristica principe, oltre a quella del volo, è ciò che loro riescono a portare a bordo, quindi a seconda della macchina fotografica, della camera multispettrale che noi riusciamo a caricare appunto sopra questi strumenti, possiamo andare ad operare in determinati ambiti, come quello dell'agricoltura ad esempio, come quando andiamo a fare fotogrammetria per momenti di emergenze come possono essere le frane, le alluvioni, quindi a seconda di ogni ambito di applicazione abbiamo payload differenti che possiamo caricare su strumenti differenti. Tu usi payload, che è una terminologia spaziale, praticamente gli strumenti che mettete che a bordo. Ecco, esatto, ma senti, quanto tempo ci vuole per maneggiare professionalmente un drone? Quanto tempo ci hai messo tu? Guarda, in linea generale per fare tutto il percorso occorrono all'incirca un paio di mesi, e ora la regolamentazione ENAC richiede che ci siano i piloti che abbiano acquisito un brevetto per poter pilotare questi strumenti, e quindi i corsi sono di 33 ore che possono essere suddivisi in varie settimane, come ad esempio fra Aerodrone, e dopodiché, dopo aver acquisito il brevetto, c'è ovviamente anche una pratica che va attivata nei confronti di ENAC per diventare degli operatori e per certificare i propri strumenti ad essere abilitati sempre da ENAC per l'uso, sì, di lavoro aereo specializzato. ENAC è l'ente nazionale dell'aviazione civile. Esatto, dell'aviazione, sì, che gestisce civile. Praticamente tutto ciò che vola. Esatto, sì, esatto. I droni sono entrati di diritto e di forza proprio nella regolamentazione aeronautica. Veniamo all'agricoltura. Intanto, che strumenti deve montare questo drone? Deve essere equipaggiato questo drone per essere utile al contadino? Ma allora, il drone può montare una camera multispettrale, quindi la cosa che è più interessante è sicuramente l'indice NDVI, che è Normalized Difference Vegetation Index, che è quello che permette di dare una lettura allo stato fogliare. Quindi praticamente noi con questo strumento, volando sopra i campi, e ce lo possiamo permettere in un certo modo, nel senso che grazie anche alla georeferenziazione che questi strumenti hanno, quindi ogni singola foto che loro scattano è una foto che è georeferenziata, quindi sappiamo dove è stata scattata, in altitudine, in latitudine, in altezza, e possiamo di volta in volta e anche nell'arco di una stessa stagione ripetere tutta una serie di rilievi. Questo ci permette di avere praticamente uno stato del terreno, dell'evoluzione di quello che è poi la coltura che si trova sopra questi campi, che gli agricoltori, insomma, che le grandi aziende anche agroalimentari vanno a lavorare, a coltivare, e ci permette di capire qual è lo stato magari appunto del prodotto, se manca dell'acqua, se invece ci sono delle zone del terreno dove magari c'è una persistenza di acqua e quindi il terreno non riesce a filtrare in modo corretto, se la pianta è in sofferenza o meno. tramite la lettura di questi dati che noi riportiamo a casa, perché poi la cosa interessante per noi è che tutte le foto che noi portiamo non sono belle, perché ovviamente sono delle foto dall'alto e quindi hanno comunque un certo effetto, sono molto emozionanti, ma portano ovviamente in sé dei dati, tutti sono i dati, degli indici. Ecco, esatto. Infatti la parte interessante anche dell'utilizzo del drone è quando lui torna a terra, voi acquisite tutti questi dati e praticamente possiamo ovviamente in maniera sintetica dire che ci restituisce un'immagine, una mappa del terreno, facendoci vedere magari con diverso colore quali sono gli stati del terreno, quindi i se problemi, ci sono praticamente. Dei problemi. Ma scusa, esatto. Sono anche dati che in altro modo non si riuscirebbero a avere, insomma. Allora, si potrebbero avere, però magari non sarebbero, cioè sarebbero molto più puntuali, perché magari su grandi campi, di grandi pezzature, magari 100 ettari o 80 ettari, mettiamo caso, l'agricoltore, i tecnici, gli agronomi specifici vanno a fare dei rilievi che sono puntuali e quindi non si non c'è l'insieme. Avere, esatto, uno specchio così ampio. E poi anche una questione di tempo. E riusciamo a volare davvero in 30 minuti, copriamo tanta terra, 80 ettari di terra con molta facilità. Una volta che vengono recepiti questi dati, a quel punto l'agronomo, l'agricoltore decide come agire, quindi diciamo che entriamo nell'abito un po' dell'agricoltura di precisione, per cui dice: in quella zona del terreno manca acqua, bene, vado ad irrigare lì, oppure c'è un parassita, vado a dare fitofarmaci solo lì. Esatto, si riesce a essere molto più precisi e puntuali nell'utilizzo e anche nel risparmio delle risorse per quanto riguarda l'acqua soprattutto, e anche nell'utilizzo di eventuali fitofarmaci, perché se c'è un'area che magari è più in sofferenza si può andare a agire direttamente in quell'area specifica, invece che magari colpire dare ovunque. Oh, va bene, grazie Masha, come si dice, buon vento, buon volo. Grazie, sì, buon grazie lavoro, ciao, buon lavoro, ciao. Questo è tutto per i droni in agricoltura. Ci risentiamo presto per una nuova puntata di Food Lab.